Allora, l'iniziativa di oggi pomeriggio è destinata a presentare questa rivista che si intitola Paradosso e che è uscita nella sua prima serie verso la seconda metà degli anni 90 del secolo scorso. Originariamente il comitato promotore di questa rivista era costituito soprattutto da Massimo Cacciari, Carlo Sini, Vincenzo Vitiello e Sergio Givone, ai quali poi immediatamente dopo si era aggiunto Massimo Donà. Qual era il progetto originario della rivista che fin dall'inizio, fra l'altro, non prevedeva la pubblicazione presso un editore di grido, perché si appoggiava su una giovane casa editrice della provincia di Treviso, quella provincia di Treviso che vota 67% per la Lega Nord, ma vabbè, lasciamo perdere, nella quale provincia di Treviso c'era questa piccola casa editrice che si chiamava Pagus, che si era assunta il compito di patrocinare la pubblicazione di questa rivista. Il progetto originario, così come era stato formulato dai direttori, all'incirca scaturiva da questo sommario ragionamento. Nel panorama delle riviste italiane di filosofia si potevano notare, da un lato, riviste di taglio strettamente accademico, che avevano anche la caratteristica di essere fortemente caratterizzate secondo un'impostazione storicistica, per cui l'interesse predominante della stragrande maggioranza delle riviste di filosofia accademiche era, come dire, quella di riprendere la tradizione della storiografia di ispirazione attualistica, neoidealistica, e dall'altro riviste di filosofia che, per la verità, erano organizzate come contenitori nei quali poi venivano ospitati i contributi più diversi ed eterogenei. Secondo la valutazione dei promotori invece di questa rivista, mancava una rivista che fosse una rivista di filosofia, e cioè che avesse l'ambizione, lo scopo, l'obiettivo di individuare alcune questioni filosofiche di fondo e cercare di proporle con il massimo rigore teoretico, senza concessioni accademiche, senza quell'indugio erudito con cui molto spesso erano costruite le riviste di storiografia filosofica, ma anche senza, diciamo così, quella pura e semplice affastellamento di saggi che caratterizzava, tanto per fare un esempio, una rivista come Out Out, che pure aveva avuto una funzione storica non trascurabile, ma che ormai si limitava a ospitare contributi eterogenei. Qui si voleva fare filosofia, individuare per ogni numero un argomento monografico e intorno a quell'argomento monografico tentare di andare a fondo della dimensione teoretica del tema individuato. Credo che vada sottolineata anche la metodologia di lavoro, perché ciascun fascicolo era il risultato di almeno due giornate seminariali che si svolgevano per lo più o a Venezia o a Milano, alle quali partecipavano i direttori della rivista e alcune figure di studiosi che, a seconda dei temi, venivano invitati e con i quali veniva costruito un percorso di riflessione comune. Dopo la prima serie che è stata pubblicata da Pagus e che ha visto alcuni fascicoli, devo dire, di particolare rigore e approfondimento, si è dato vita a una seconda serie con l'ingresso nella direzione di Giacomo Marramao e mio e il passaggio all'editore padovano Il Poligrafo, che con molto slancio aveva accolto il progetto della rivista e aveva tentato anche di rilanciarlo. In questa seconda serie credo che vadano ricordati alcuni fascicoli sempre di carattere monografico che hanno avuto, io credo, anche un significato non trascurabile, in particolare un grosso numero di Paradosso dedicato al tema verità, che ha ospitato i contributi di una trentina tra i, io credo, tutti i maggiori filosofi italiani, da Severino a Galimberti, oltre ai direttori, insomma, della rivista, che sono intervenuti ciascuno con un suo specifico contributo sul tema della verità. Un fascicolo, a mio giudizio, importante e significativo è stato anche quello dedicato al tema della democrazia. Hanno goduto tutti di scarsa diffusione perché l'editore non è un grande editore, la distribuzione a cui si appoggia è spesso lacunosa e quindi perfino nelle città venete non sempre nelle librerie si riusciva a trovare Paradosso. Siamo poi passati, ed è questa la fase attuale, ad una terza serie con lo stesso comitato di direzione, ma di fatto con tre gruppi di lavoro: un gruppo di lavoro a Padova, un gruppo di lavoro a Milano, Padova vuol dire, oltre a me, un gruppo di giovani collaboratori, in particolare Bruna Giacomini, a Milano, tanto per capirsi, Sini e Rossella Fabbrichesi, a Roma Giacomo Marramao, la Mariannina Failla e il gruppo che si riunisce intorno alla ricerca di Roma 3, quindi Elio Matassi, Francesca Brezzi, un gruppo nutrito e particolarmente qualificato. Per chiudere, un accenno al futuro: abbiamo già individuato gli argomenti dei prossimi tre fascicoli. Il primo di questi dovrebbe uscire in settembre-ottobre e riguarderà come tema l'affettività del pensiero. Il secondo fascicolo sarà curato prevalentemente dal gruppo di Milano e avrà come tema il denaro, mi pare. E poi c'era un terzo fascicolo del quale attualmente mi sono dimenticato l'argomento. Tu forse che hai appunti della riunione che abbiamo fatto. Perché forse prima del tema denaro c'era la natura e oltre natura, sempre curato dal gruppo milanese di Sini e Fabbrichesi. Temo di avere messo gli appunti della riunione su un altro. Questo, la concettualità del presente, lo dico perché è anche il modo per passare la parola a Giacomo, in qualche modo, come ricorda Bruno Giacomini nella sua introduzione, prende spunto da una rivista che è in qualche modo la progenitrice di Paradosso, nel senso che all'incirca le stesse persone negli anni Ottanta avevano dato vita a una rivista che si intitolava Il Centauro, esatto, ci trovavamo per lo più a Roma, a casa di Giacomo Maramao, quando abitava a Via del Pellegrino. Il metodo di lavoro era lo stesso, una giornata intera di discussione serrata. Uno c'è dei, un'antologia del Centauro. È uscita l'antologia del Centauro. Uno dei temi affrontati da Centauro guida di... fu una intuizione, devo dire, di Giacomo, particolarmente lungimirante, e cioè Giacomo ci propose di pubblicare i testi connessi di Foucault e di Habermas a commento del 250° anniversario della pubblicazione del Vasista Aufklärung di Kant, e cioè nel 1984 era uscito un saggio di Foucault e un saggio di Habermas che commentava il saggio di Foucault su Kant. In qualche modo questa concettualità del presente riprende questa triangolazione Foucault-Kant-Habermas, che furono appunto proposti allora nella traduzione e nel commento di Giacomo Maramao. E così il testo di Foucault era uscito in francese, il testo di Habermas mi era stato mandato da Habermas perché era uscito sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che aveva tradotto la lezione di Foucault su che cos'è l'illuminismo di Kant, e poi naturalmente con la risposta di Habermas. Quindi era diciamo una primizia, e infatti tutti gli altri che poi hanno poi ripubblicato o fatto traduzioni autonome out del testo di Foucault, o poi anche nell'archivio Foucault non hanno potuto poi fare una traduzione del testo di Habermas, perché non sapevano che il testo di Habermas era uscito semplicemente su un quotidiano, il testo su un quotidiano, e quindi non c'è mai la... la novità è che sono stato il primo a tradurre il testo di Foucault e l'ho messo insieme al testo habermasiano. Voi avete già sentito da Umberto Curi quali sono le tematiche a cui si è dedicato Paradosso nella precedente serie. La nuova incomincerà con l'affettività del pensiero, ed è sul pensiero simbolico, sulla verità, comunicazione, espressione, rivelazione, democrazia, xenos, filosofia dello straniero, le potenze del filosofare, logos, techne, polemos, il destino di Prometeo, razionalità, tecnica, conflitto, tutti, fascicoli che nascono da un lavoro collettivo, da un interscambio tra di noi, da progetti di ricerca comune. Quello che volevo dire, il bello di questo testo sul presente, per una concettualità del presente, e sono due o tre temi che ricorrono. Il primo ricorre nella introduzione di Bruna Giacomini, che devo dire l'ho accurato come al solito con un rigore estremo, con grande eleganza, anche con grande profondità. E insomma, come mai pensare il presente ha a che fare con un paradosso? E questa è la domanda prima. Il pensiero filosofico del presente è un paradosso. Ed è un paradosso, si badi, per una serie di ragioni che ritornano anche nel dibattito filosofico contemporaneo. Ancora oggi la filosofia analitica e anche gli analitici che hanno cambiato e sono diventati ermeneutici in qualche modo, tipo Richard Rorty, se sono di formazione analitica non riescono a immaginare una filosofia che abbia come oggetto il presente. Ho fatto questo molto rilevante perché la filosofia fino alla modernità, fino al Settecento, ma poi soprattutto fino all'autore che ha posto ad oggetto del concetto il presente storico, cioè Hegel, la filosofia aveva escluso dal proprio orizzonte di riflessione il presente. Cioè, la filosofia ha come suo oggetto l'esperienza, la conoscenza, le proposizioni vere e false. Proposizioni vere e false. Io cito sempre uno dei testi di Richard Rorty, che è un testo che risale a dopo l'11 di settembre, quindi che è stata l'irruzione della dimensione avvenimentale o evenemenziale più, in qualche modo, anche spettacolare, no? Tragicamente spettacolare della nostra epoca. Rorty in un saggio dice non è possibile una, come la chiamavo, una philosophy of current events, cioè una filosofia degli eventi correnti, non è possibile. Se andate a vedere, gli analitici stessi non riescono ancora a concepire una cosa del genere, e Rorty come analitico di formazione tutto l'altro dice, no, ma dico, ma che, e ti dice una cosa che tutto sommato poi gli analitici poi dicono, combattute anche cari amici Maurizio Ferraris, ma su quello che avviene nel presente, nell'evento, su un evento storico, un filosofo non ti può dire qualcosa di molto diverso o molto più intelligente di quello che ti dice un tassista, un tranviere, un ragioniere o chiunque altro. Cioè, nel senso che la filosofia non ha una competenza specifica, perché l'evento storico, l'accadimento storico non è oggetto filosofico, cioè non è oggetto di verità, non ha nulla a che fare col discorso intorno alla verità, non è concettualizzabile. E dunque qui si pone invece un problema che noi riteniamo tutti più o meno con diverse angolazioni prospettiche, però riteniamo tutti che questo compito paradossale vada assolutamente onorato, che si debba porre ad oggetto l'evento, e l'evento soprattutto del presente. Bruna fa vedere molto bene, una ricostruzione molto bella, noi abbiamo uno sdoppiamento a un certo punto del concetto di presente, che poi è legato alla modernità. La filosofia moderna pone a proprio oggetto il presente, affianca il presente alla natura, in qualche modo, il presente storico a ciò che è presente naturalmente. Quindi vi è uno sdoppiamento della presenza. Cioè io guardo voi siete un evento naturale, e vi posso guardare anche come evento naturale, ma vi guardo anche come evento storico. Noi siamo qui in qualche modo perché stiamo cercando di parlare di un qualcosa che ha a che fare con una rete di relazioni di cui è intessuta l'epoca, insomma, no? Questo è un punto. Ecco, questo Hegel lo pone ad oggetto specifico, c'è uno sdoppiamento della presenza, no? E questo è proprio della modernità, cioè il moderno è riflessione, diceva Foucault, è riflessione sul presente. Io in un mio libro ho provato anche a dire che secondo me contro, e qui io condivido la posizione anche di Massimo Cacciari, ma anche di Umberto, mi pare, su questo punto, che Foucault non va preso tanto come oro colato, cioè viene troppo preso come oro colato, che non è un filosofo di professione, nel bene e nel male. A volte va avanti con espressioni più suggestive che non rigorose dal punto di vista concettuale. Gli amici filosofi che lo valorizzano sono tutti o letterati o dilettanti di filosofia. Cari amici, Giorgio Agamben di formazione un letterato, Roberto Esposito di formazione un letterato, Toni Negri è di formazione un giurista, non, è uno storico, un po' uno storico, nessuno dei grandi, e poi, insomma, poi si discute, nessuno dei grandi estimatori ricordi d'infanzia, va bene, poi vediamo, nessuno dei filosofi che valorizzano Foucault in qualche modo è un filosofo, i filosofi di professione tendono a intervenire su Foucault con circospezione, quando dico è accaduto a Derrida, che bene o male, piace o non piace, era un filosofo di professione, è accaduto a Jean-Luc Nancy, accade bene o male a Badiou, che è un filosofo di professione, accade a Balibar, accade a molti di, appunto, filosofi che io stimo enormemente. Allora, lì in Foucault c'è, a mio parere, una confusione fra presente e attualità, cioè la ontologia del presente e ontologia dell'attualità vengono viste sostanzialmente come sinonimi, mentre io insisto molto sulla quella che io chiamo la piega inattuale del presente. Il concetto di presente ha sempre una piega inattuale, sfugge rispetto all'attualità. Cioè, io proprio amo usare questo termine piega. Allora, Bruna Giacomini, un po' in rapporto anche con questa serie di questioni e con molta attenzione critica, fa vedere come il presente della modernità sia collegato a due concetti, uno di origine latina e l'altro di origine, appunto, tedesca. Il concetto latino è modernus, che viene da un avverbio latino modo, che vuol dire appunto orora, testè accaduto, e nella concezione romana il moderno non è un periodo storico, ma tutto ciò che si colloca dopo l'antico, cioè si sentivano modernissimi appunto gli abati di Chartres, della scuola di Chartres nel XII secolo, come si sentivano modernissimi rivoluzionari francesi, non c'è differenza da quel punto di vista lì. Moderno è ciò che sta accadendo ora. Un po' il significato che abbiamo mantenuto, faccio un po' una riflessione, in arte abbiamo mantenuto, cioè l'arte o in architettura, il moderno è quella roba là, il moderno è quella roba là dell'arte, l'arte moderna, uno dice arte moderna è l'ultima arte che c'è, non è l'arte moderna della prima modernità, e allora c'è questa idea, cioè il moderno come il testè accaduto, come l'ultima creazione in ambito artistico, questa è una zona, diciamo, semantica in cui si è mantenuta questa concezione. Però Bruna Giacomini fa vedere che c'è l'idea del moderno come tempo nuovo, età nuova, c'era già nel Rinascimento l'età nuova, ma che è preso maledettamente sul serio dai tedeschi, l'espressione Neue Zeit, no? Che prima espressione Neue Zeit e poi si contrae in Neuzeit. Badate bene, sarebbe da verificare questa osservazione di Bruna, che dice che soltanto che a partire dal 1870 c'è Neuzeit. Non mi ricordo più se nelle lezioni di storia della filosofia Hegel a un certo punto usa il termine Neuzeit e non soltanto Neuzeit, ma forse credo abbia ragione Bruna che in Hegel non c'è la Neuzeit, ma c'è ancora la Neuezeit, queste, diciamo, l'espressione in due termini, e soltanto a partire dal 1870 abbiamo la contrazione Neuzeit, tempo nuovo, che poi coincide con l'idea di modernità, ma sono tutte cose molto importanti. Il presente, nel momento in cui viene concettualizzato, deve fare i conti anche con una serie di paradossi, interno, soltanto paradosso a monte, ma anche il paradosso interno alla idea di presente, come si costituisce il concetto di presente. Il presente, come il presente temporale, rischia di restare sempre in bilico tra passato e futuro. E naturalmente, quindi di essere come dice Bruna Giacomini molto bene, con un'espressione molto elegante, un fragile infra tra il passato e il futuro, e questa lacuna a un certo punto potrebbe anche suggerire la tentazione di essere, come dire, saltata a piè pari questo vuoto, no? E allora abbiamo il cortocircuito tra il passato e il futuro, tra il futuro e il passato, e qui abbiamo la tematica di Koselleck del futuro passato, no? Che è molto questa sorta di cortocircuitarsi del futuro in passato. Altro aspetto del presente: come lo visualizziamo il presente? Lo visualizziamo in concetti, ma anche, ci dice un importante nostro collega della Freie Universität di Berlino, che è filosofo ma anche antropologo, tra l'altro antropologo comparatista sul campo, Christoph Wolff, e questa esperienza del presente, che comunque sempre spazio temporale, intreccia spazio e tempo, ha a che fare con la imago e con la immaginatio, cioè con l'immagine e con l'immaginazione, e anche con il potere performativo dell'immagine e dell'immaginazione. Quindi, cioè, l'immagine non è mai un qualcosa di neutro, l'immagine da come tu la angoli, la tagli, l'immagine ti dice, appunto, ti dice una cosa al ciclo un'altra. Quindi ha un valore, nessuna immagine, diciamo, questo vale anche per la fotografia, no? Nessuna immagine ha un significato puramente descrittivo, non si limita a descrivere o a riprodurre, ma c'è una performatività. Se io prendo uno di voi fotografandovi, uno di voi con un angolo anziché un altro, l'effetto immagine è completamente diverso, ma quello che vale per le persone, per i singoli volti, perché non dovrebbe valere per i gruppi umani, tra i gruppi degli agenti umani, no? Avete visto che per fare propaganda durante la campagna elettorale hanno ripreso quelli del Popolo delle Libertà di Milano, la Moratti, eccetera, riprende una la Santanchè, anzi ancora peggio, no? Appunto, riprende un pezzo della manifestazione al concerto fatto da Pisapia con Vecchioni, meglio, Vecchioni faceva il concerto e Pisapia faceva il discorso, magari nel caso di alcuni filosofi potrebbe valere la pulsione contraria, molti vorrebbero cantare e fare parlare i cantanti, no? Allora la cosa lì ti fa vedere un simbolo che viene pubblicizzato secondo la comunicazione come un simbolo di Hamas. Cioè, guardate, questi qua sono alleati di Hamas, eccetera. Provocavano il povero Gad Lerner, ma tu, ebreo, eccetera, come fai a tollerare Pisapia, nella cui manifestazione il simbolo di Hamas? Questo è uno degli esempi anche più clamorosi, evidente, della performatività dell'immagine, ma diciamo che l'immagine può essere performativa se uno ti prende il volto di un manifestante, non il manifestante che scaglia la Molotov, quello sarebbe troppo evidente, ma il volto di un manifestante in un certo modo anziché in un altro, e viene fuori naturalmente la performatività dell'immagine. E quindi il contributo è molto, ho trovato tante cose molto belle, molto interessanti nel volume. Voi sapete che Foucault, per dire che cos'è l'ontologia del presente, poi che lui chiama anche ontologia dell'attualità, dice ontologia di noi stessi, ontologia di noi stessi, de nous-mêmes, no? E Jean Michelet, che è un oltre che uno dei miei più antichi amici francesi, e se non vedo da parecchio tempo, è un grandissimo studioso di Nietzsche, è anche uno grande studioso di Freud, grande studioso di Kafka. In questo suo contributo, che si chiama L'età dei concetti, parte da un interrogativo: cosa significa dire noi? Cioè, ontologia di noi stessi. Noi, chi siamo? Noi. Che vuol dire noi? Cosa significa dire noi? Che cosa comporta il noi? È molto bella questa cosa, c'è un contributo anche filosoficamente molto rilevante. E poi ancora, senza ovviamente volere sminuire altri contributi, ma il contributo di Grigenti, no? In cui introduce un tema che nella comparatistica è molto importante, secondo me più importante del tema dell'indignazione, la vergogna, perché io trovo ad esempio che una società funziona se qualcuno comincia a vergognarsi di qualche puttanata che combina, no? In senso lato, anche in senso stretto, no? È molto più, cioè, se c'è chi si indigna, tutti si indignano, ma se quell'altro non si vergogna, alla fine non cambi molto, ma se quello lì si comincia a vergognare, è una cosa molto importante. Questo tema della vergogna nel saggio di Grigenti lo trovo molto importante, anche perché molte società non occidentali, ad esempio, si basano molto sulla soglia della vergogna, ad esempio appunto Ruth Benedict nel Crisantemo e la spada, analizzando un classico dell'antropologia, analizzando la società giapponese, ha detto che quella società ha una soglia della vergogna molto più elevata rispetto alla nostra soglia. No, abbiamo una soglia, quella occidentale, molto bassa. Chissà che avrebbe letto Ruth Benedict davanti ai politici italiani del nostro presente, del nostro tempo, no? La storia della vergogna è bassissima, cioè rasoterra, cioè nel senso che probabilmente non c'è quella soglia, cioè loro si rotolano per terra e la soglia della vergogna non viene mai raggiunta, no? E questo è un tema molto importante, cioè appunto carenza, intermedietà e vergogna alla posizione dell'uomo, ma poi c'è l'Iconic Turn di Maria Teresa Costa, studiosa di Benjamin, che in qualche modo si salda molto con le tematiche di Woolf. Non a caso la Costa l'ho incontrata l'ultima volta l'ho incontrata a Padova, l'ho vista anche a Berlino con Woolf. E poi molto interessante questo contributo di Francesca Rigotti, ma ripeto, non posso elencarli tutti i contributi. Francesca Rigotti introduce una questione delicata, il termine che noi il termine che noi traduciamo con reificazione in italiano, in tedesco Verdinglichung, che dove c'è Ding, no? Come in realtà non è reificazione, perché il termine tedesco Ding non ha a che fare con la res, che invece ha un corrispettivo tedesco in Sachen, no? E allora che cosa significa la Verdinglichung? Non è propriamente la reificazione, è una sorta di cosificazione. Io qui non voglio, diciamo, adesso andare verso una... la cosificazione sta in qualche modo in un rapporto, diciamo, in una relazione di reciprocità con il suo contrario, la decosificazione. E per quale ragione? Perché se nel momento stesso in cui Lukács parlava del mondo delle merci come un mondo della cosificazione, con cosa intendeva l'indeterminazione. Quando noi usiamo anche che cos'è questo, no? Che cosa è l'italiano, cosa indica una indeterminazione, una indifferenziazione. Ding è qualcosa di indifferenziato, quando Kant dice Ding an sich, no? La cosa in sé, quell'X, quella cosa indeterminata, non... E quindi la cosificazione ha a che fare con un processo di decosificazione, cioè in realtà prepara l'indifferenziato della cosa, la cosa indifferenziata, la riduzione dei rapporti umani e degli individui umani a pure cose, a cosa indeterminata, la famosa cosa che doveva essere il partito, no? Il famoso partito, no? Non a caso viene indicato con la cosa, no? E allora, essendo indeterminata la cosa, la cosificazione, secondo la nostra amica Rigotti, prepara il terreno al processo contemporaneo del dominio della merce e del capitale, dunque, come potere e dominio smaterializzato. Quindi di fatto la cosificazione prepara la decosificazione, l'annullamento della materialità della cosa, cioè la cosa in qualche modo diventa unicamente un indifferenziato processo di smaterializzazione. Direi, ma queste sono soltanto alcune delle tante questioni che io ho trovato in questo numero, che è un numero veramente molto, molto ricco, molto bello, molto, molto, molto rigoroso, a mio parere merita di essere valorizzato, ecco, al di là del fatto che naturalmente c'è il mio coinvolgimento in direzione, però al di là di tutto, io penso anche il merito di questo numero è fondamentalmente di Bruna Giacomini, oltre che delle autrici e degli autori, ma è un numero che merita di essere valorizzato, perché vi sono, come ho cercato appunto di far emergere, vi sono delle aperture prospettiche sorprendenti addirittura, ci sono degli squarci anche concettualmente sorprendenti, molto molto molto importanti, ecco. Questo volevo dire, non so se ci sono altre, se vi interessa. Ma volevo dire due cose, uno, se volete, non so, cioè, cos'è il nome per Foucault, no? No, non per Foucault, il nome. No, Jean-Michel Rey dice che noi in realtà è una anche il noi è performativo, cioè nel senso che non esiste un noi, che non si dà un noi. Io non devo dire quello che dice, appunto, forse magari cose molto. Mi interessava questa cosa, perché lei, tra l'altro, ha citato anche, mi ricordo, forse sì, dicendo io con noi, però questo mi interessava, perché se è possibile, anche dal punto di vista filosofico, non lo so, in Europa chi ha trattato questo, un noi senza. Un noi senza? No, ma questo è tutto. L'individualità, no, rispetto a un altro, un minuto così, sì. Rispetto se il noi appunto è una cosa massificata, o un po' esiste o non esiste, o non può non prescindere appunto dall'individualità, che prima lei parlava di diverse, ha detto tante e più diverse, no? Posizioni, ma che sono in relazioni e si compongono su questo. Quindi mi interessa l'individualità e noi, prodigiosamente. O il consorzio civico o condividere le cose in una dimensione dialettica. E qui faccio rispondere a Umberto Curi, perché lui sul noi e loro e lo straniero ha scritto cose fondamentali. Io e mai noi, c'è chi dice noi anche per dire se stesso e basta, noi. No, no, bene, io stavo dicendo lo stavo perché noi, se l'individualità oppure su questo rispetto a due altri progetti che mi interessano veramente, uno è quello dell'indignazione. Io francamente questa indignazione qui, in una dimensione non protestataria, non dichiarata veramente la rivoluzione, casomai ripetendo le stesse cose che criticava, come le ha citato la rivoluzione francese prima. Sì. Lavati, o tagliando le teste, non come dovesse avvenire in Antonio così, e quindi semplicemente in quella cosa, nel momento in cui se non usavo quelle parole, esattamente oltre che dopo, poco dopo, anche quelle parole inquinavo, contaminavo, perché mettevo i testi a cos'è contestato. Ecco perché questa indignazione su una serie di cose, un'indignazione che crea valore, sì. Cioè critica, non so come si chiama nei sistemi filosofici, che conosco abbastanza poco, insomma, cioè critica costruttiva, comunque mettere valore. No, no, ma insieme a questo allora la vergogna mi interessa questo, chi la proietta nel senso perché se c'è indignazione, l'indignazione va per migliorare qualcosa. Ora, se un sistema che è quello appunto, io anche questo conosco poco, non so se la scuola di Chartres, non so se quella a cui fa riferimento, forse prima, il libro di Guerrero, del nome della cosa, comunque quelle di cose, l'immaginario un po' così fosse successo così. E così. La questione è questa. Cioè, ad esempio, la vergogna cos'è? È vergognarsi di ripetere la cosa, poi indignare, dare regole, ma non etiche, morali, che fanno sì che il comportamento non avviene più, che si crea valore. Ecco, su queste due cose, perché sennò va a finire che con un certo tipo di indignazione e vergogna, ma no, lei hanno dei vari passi perché hanno, come dire, come si chiama, quando ci sono delle... allora il problema è nel senso di responsabilità della cosa. No, no, ma questo mi interessa perché non è una logica, non so come chiama, confessionale, che fa peccare per dire poi quei peccati si rifanno in carità, fa parte di quello. Allora credo che l'indignazione, il modo di indignarsi, è qualcosa di giusto, perché non è capito. No, ma perché poi... io mi indigno e poi dopo insomma lo dici che non muovo un dito quel grande pensiero che non è capito. No, no, no, ma è... no, no, è... lei ha detto cose giuste, chiarissime, è chiaro che sono tutti e due movimenti importanti, sia il movimento della indignazione e sia il movimento non so chi ovviamente lo sostiene con queste parole perché come quelle non so di chi, cioè a chi fa, se c'è una corrente di pensiero che fa che usa proprio questa parola a parte il successo di questo libretto di questo vecchio Stefano Essel che è un vecchio come dire leader è un volumetto che sta avendo un successo enorme, un volumetto piccolissimo, anche molto semplice come lettura. Hessel, un francese, un partigiano francese, uno della resistenza francese, 93 anni. E quando è andato da Fazio, subito dopo c'è andato Nanni Moretti, il quale ha detto a Fazio, ha visto com'è questo quello lì a 93 anni, pensa come saremo noi due a 75. E se era 93 anni sembrava un grillo quello lì, faceva delle cose incredibili. Comunque, no, lei ha perfettamente ragione, il movimento è bilaterale, non è soltanto un movimento della vergogna e basta. Certo che l'indignazione è una funzione importante, storicamente, però io dico che per un cambiamento della società il provare vergogna è fondamentale, perché se noi ci limitiamo alla resa dei conti, la resa dei conti è radicale, faccio un discorso un po' duro, che è la mia tesi almeno, io sono convinto che la resistenza in Italia doveva andare molto più a fondo di quanto non sia andata, nel senso che io avrei passato sotto le armi un altro paio di milioni di persone in Italia, nel senso che sarei stato molto molto più radicale. Deve essere non sono il solo. No, appunto, io sarei andato molto più in là. Deve essere l'area di Roma, Alberto Sorrosa. No, ma Alberto Sorrosa vuole la cosa, vuole i carabinieri e magistrati che tutelano la cosa. Quelli, se gli dai il posto, quelli prendono il potere, il giorno dopo arrestano lui. Però, il primo lo prendono. La giorno dopo se gli dai il posto. Comunque sia, la... no, il problema è che a mio parere o fai questo in modo radicale oppure cerchi di operare un cambiamento vero delle persone, nel senso che non è che non, insomma, è possibile anche la metà. Se fai una cosa a metà, la rivalsa degli sconfitti è inevitabile. Quelli staranno per decenni ad aspettare la rivalsa e saranno irriducibili. Quello che è accaduto in Italia è stata una cosa intermedia. In Germania si è posto di meno il problema perché gli alleati hanno rasato solo la Germania, ha avuto una batosta incredibile, e quindi sulle rovine piano piano, a parte una minoranza che è sempre fisiologica, di estremisti, razzisti, eccetera, ipernazionalisti, poi hai però avuto una resa di conti col passato assolutamente più profonda di quella che abbiamo avuto noi in Italia. Questo è il problema, no? Sì. No, io dicevo che... quello sì. Da costruire così, e quindi indignarsi se qualcuno in base a delle idee di costruzione di società, idee della sanità delle persone, che se la costruzione togliere cose, e inizia a togliere cose, basta che l'Italia, no, ma non sto parlando no. Allora il problema è che, allora, anche perché mi sa che invece quello fa parte di un sistema che non so banalmente studia confessionale, che si alimenta, no, un momento, cose, no, no, si riduce così. Professionale o laicamente, ho capito, no, ho capito, no, ho capito, ma dal punto di vista l'illuminismo che recita, o semplicemente anche penso a quello, non sono propriamente più freddo che Thomas Paine, che sono vicino, conoscevo di nome, primo, secondo, no, perché non dico proprio la storia americana, parla appunto di cosa deve essere appunto il poverino. Uno dice, parla del The Way to Wealth, parla sul denaro, cioè la vita, la ricchezza. E l'altro, invece uno che sarà, penso, non so quale regione, una delle tante regioni d'America, che ha detto l'accordo tra le regioni politiche, qui abbiamo libero stato di liberarchia, che è stato detto in questo modo. Ecco perché diciamo, mi chiedo se non può essere fuorviante fare riferimento a quel termine insieme all'indignazione, quando se l'indignazione diventa il protestarismo, che ha semplicemente... Diventa il? Protestarismo, che è semplicemente ripetuto, poi due minuti, le cose così, non dando, come diceva Bobbio, cioè dando l'esempio nella vita quotidiana che Freud ha analizzato, cioè, o semplicemente non rigenera se confessione, ma io sono laico confessionale, io sono una dimensione che non è perché porsi il problema di ciò di cui, e non dire che società si vuole, che idee si hanno, che è indignarsi di fronte a che cosa cosa la generale, perché se no dopo rientriamo lì e poi questa logica che io credo che sinceramente ovviamente era una novità quella della così la contrapposizione che qui il vostro collega insomma della generazione di Sofia Favone ha chiamato guerra civile e che palese sotto così nel suo primo romanzo appunto la chiamata guerra civile parlato o forse del diario su di non credo che pensi questo, ma questa cosa mi interessa anche perché come lei lo sa i pensieri di generazione come è dato di 10 giorni, dato di 10 anni, quanto un pensiero attivo può essere invece stato dicendo opposta di questi due, o almeno di uno, cioè di indignarsi di fronte a ciò che non c'è, di avere una progenie di qualità che non si aveva pure per essere attivo, ma si non una tenda qui. Va bene, Umberto, vorrei... Ma mi pare che è stata una discussione molto ampia, non so se ci siano altre curiosità. La mia percezione di tutte le parole che sono state dette è quella che forse il problema della conoscenza in realtà, se possiamo dire, io lo sento molto dal problema della conoscenza, nel senso che poi la conoscenza della realtà, della comunicazione, tutto questo problema di verità, questo sfasamento ormai tra le cose. È una che vada a riproposito con il tema che riguarda della cosa, la cosa, se veramente, non so, questo è filosofo, non la volontà di questo, si può dire, si può parlare di una scomparsa della cosa, oppure la cosa si pone come morte, cioè il problema della realtà intorno è il problema continuo della difesa dall'attacco, dall'aggressione alla propria vita, e questo poi diventa il ricordo del senso. Quindi, se intanto che si avrà paura di queste, per la nostra incolumità ci sarà la cosa. E quindi magari la conoscenza poi si concentrerà con i problemi di reazione, di paura, appunto di controllo della realtà. E quindi il senso comune da ritrovare, secondo me, è questo, cioè questo ritrovarsi in mano nel senso di cui quindi si sente fatto riguardo la propria vita, della sua pericolosità, del vivere, quindi razionalizzare di nuovo, no? tutto quanto, tutto l'esistenza. Io invece volevo dire una cosa velocissima. Questa concettualità del presente come si relaziona con la storia, sia con il senso e con la memoria. Nei termini in cui appunto questo presente, quali sono i limiti di questo presente, se esistono dei limiti, come si configurano dei processi storici sia di ricostruzione, ma anche naturalmente con i processi quotidiani della memoria, mi ha fatto riferimento all'immediazione, alla resistenza, va molto di moda, nel senso migliore della parola, di moda per i processi di memoria, di ricordi, delle varie tragedie umane. Ecco, questo incastrarsi del presente o comunque relazionarsi tra storia e memoria, questo lo dico. Alberto. Ma riprendendo alcune cose che diceva Giacomo prima, sottolineando il carattere paradossale del tentativo di concettualizzare il presente, ecco, penso che possa essere non inutile, come dire, cercare di trovare anche la radice problematica di questo paradosso. E in questo fascicolo credo opportunamente questa radice viene individuata nella radicale aporia che è alla base stessa del concetto di tempo. Qui il riferimento esplicito è quello anche che ci è più familiare, e cioè la discussione che del concetto di tempo conduce Agostino. Vi ricordate con quella formulazione di cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, so benissimo di che cosa si tratta, ma se me lo chiedete non saprei che cosa rispondere. No? La cosa interessante è che una formulazione quasi identica la ritroviamo in Gadamer, che pure enfatizza questo carattere, insomma, inoggettivabile del tempo, richiamando per l'appunto la distinzione agostiniana fra un tempo che ha la sua realtà nella distensione della coscienza, ma che proprio perché è reale in questa dimensione della coscienza perde ogni presunta oggettività, no? Cioè non possiamo dire che c'è un tempo passato, perché il passato è quello che non è più, non c'è un tempo futuro perché il futuro non è ancora, e cosa fondamentale, il presente, che sembrerebbe essere l'unica dimensione di tempo provvista di realtà, è null'altro che quel fra di cui richiamava bene prima Giacomo in rapporto alla Giacomini, e cioè quel fra che è il passaggio da un non ancora a un non più. Questo significa, Claudio Petruccioli, non so che Aspetta, il premio Capalbio, io l'ultima volta l'ho visto lì. Sì. Perché lì a casa Capalbio. Certo. Insomma. Chi non ho capito che è venuto a fare qua adesso? Perché c'era la presentazione di Paradosso. Ma lui è filosofo di formazione. È filosofo. Anche se è una bestia però ormai. Insomma, credo che per poter riprendere anche quel ragionamento sull'importanza della conoscenza, questa conoscenza non può mai essere, io credo, per quanto riguarda il presente, la pura e semplice oggettivazione di eventi, ma il riconoscimento del carattere problematico e paradossale del presente in quanto frontiera tra il non ancora e il non più. Da questo punto di vista i saggi che sono contenuti in questo numero di Paradosso secondo me danno una giusta enfasi a questa problematizzabilità, a questa problematicità. Certo. E mi pare che riprendano anche alcune delle questioni che sono state proposte con il riferimento al noi, al rapporto tra il noi e l'io. Un punto solo volevo sottolineare, è una specie di curiosità che propongo anche all'attenzione di Giacomo. Dunque, ma mi piacerebbe sapere la vostra opinione anche della Mariannina, la traduzione abituale dell'articolo kantiano dell'84 è: che cos'è l'illuminismo? In realtà, se uno poi legge, come a me è capitato, ci ho lavorato recentemente, insomma nel corso dell'ultimo anno, legge l'articolo di Kant e si avvede che ciò intorno a cui Kant dà una risposta, perché come è noto l'articolo kantiano è la risposta a quella che un religioso, adesso non mi ricordo, aveva proposto come interrogativo dicendo: qualcuno mi dovrà spiegare Rasista of Clerum. Certo. E il titolo esatto del saggio kantiano è Risposta all'interrogativo Rasista of Clerum. Certo. Quando Kant risponde, non risponde alla domanda che cos'è l'illuminismo, certo, come suona la traduzione italiana, ma attraverso quale processo possiamo ottenere il rischiaramento intellettuale. Esatto. Perché? Perché in tedesco Aufklärung non è soltanto, certo, e non è neppure soprattutto l'illuminismo come movimento culturale, certo, ma un processo di rischiaramento, che è quello che sta a cuore a Kant cercare. Cioè, io voglio che non è che a Kant interessi dare, certo, una definizione dell'illuminismo come movimento culturale, assolutamente, ma no, spiegare quali sono, certo, le condizioni attraverso le quali si, certo, può ottenere, esatto, il rischiaramento della nostra ragione. Esattamente. La cosa, esatto, che mi inquieta è che nonostante che sia Foucault che Habermas insistano su questa accezione dell'Aufklärung, in italiano continuiamo a tradurre Rasista Aufklärung, che cos'è l'illuminismo? Esatto. Sarebbe arrivato il momento di tradurre che cos'è il rischiaramento. Che cos'è il rischiaramento, certo. Cioè come si rischiara la nostra mente, la Se nostra tra l'altro questo è l'equivoco anche della traduzione di Dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno. Assolutamente. Perché Lucio Colletti l'ha presa proprio come una critica dell'illuminismo come periodo storico. Appunto. Cioè, voglio dire, se uno guarda il contesto, è evidente che a Kant non sta a cuore, diciamo così, difendere un periodo storico o, certo, un movimento culturale, no, ma interrogarsi sulle, esatto, condizioni che rendano possibile il rischiaramento. Dove il presente non è l'illuminismo come corrente di pensiero attuale, ma, certo, invece, certo, e invece sono gli eventi del tempo, rivoluzione francese che stava arrivando, che stava emergendo, quindi i tumulti rivoluzionari che cominciavano in tutta Europa e che naturalmente davano il segno, no? Davano il signum, come dirà poi nel conflitto delle facoltà, no? Il signum prognosticum che l'umanità può andare verso il meglio in qualche modo. Sì, penso. l'autodeterminazione della ragione. Quindi il Selbstdenken. Sì. Sì. Però diciamo le coordinate sono da un lato etico e dall'altro politico, perché il riferimento al pensiero privato e al pensiero pubblico, all'elemento meccanico, ripetitivo, quindi di mantenimento dello status quo, ed è il pensiero privato, questo sia in ambito religioso che in ambito giuridico, e il pensiero pubblico sta a indicare invece l'elemento critico di autodeterminazione del pensiero, quindi è la funzione critica del filosofo rispetto alle istituzioni che si consolidano. Dal punto di vista religioso, Kant riesce anche a dire che il pensiero pubblico, il confronto pubblico può trasformare la riflessione teologica, ha un'incidenza sulla stessa riflessione teologica, quindi è il volano in qualche modo dell'aspetto meccanico ripetitivo che si ha nelle religioni rivelate, nell'aspetto del culto delle religioni rivelate. Quindi sicuramente indica un processo di autodeterminazione, quindi ben venga il riferimento. Sì, introduce questo elemento dell'uso pubblico della ragione. Sì, è un fatto importantissimo, che poi è stato fondamentale per Habermas, figurati, la guida, no? E lui è rimasto tutto sommato legato a questo. Il problema è saper cogliere l'elemento critico progressista di un pensatore che spesso è stato considerato l'espressione del conservatorismo borghese. No, invece ci sono. Beh, quello bisogna dire che Foucault lo coglie, che negli scritti politici di Kant, storici e politici, c'è una faccia di Kant che si proietta, no, verso futuro. Una certa critica al conservatorismo borghese di Kant che viene dall'ala hegeliana. Sì, sì, sì, sì, sì. No. Sì. Invece il rapporto tra pubblico e privato mi sembra un nodo importante per la valutazione del carattere progressivo del pensiero politico e progressista, progressivo e progressista del pensiero politico di Kant. Certo. No, Foucault è forse enfatizzando, calcando un po' la mano, dice addirittura che Kant è all'origine delle due grandi tradizioni della filosofia contemporanea, la filosofia come analitica delle proposizioni vere e false, la filosofia come ontologia del presente, appunto. È all'origine di anche quella precisazione terminologica legata alla Pellegrini. Appunto, il processo di mercificazione non è la res che, ma è proprio questa ding, no? Sì, ma la vera differenza tra Sartre e Ding è proprio qui, è indeterminato, astratto. La causalità astratta. Genericità, esatto. È indeterminato, c'è un'indeterminazione nel concetto di Ding. Mentre Husserl dice che dobbiamo tornare alle cose come Sachen. Come Sachen. È vero. Sachen selbst. Però dopo tutto questo 6.000 miliardi di tempo, 6.000 miliardi di. Insomma, cari, va bene. Grazie di grazie, mi dispiace di questo. Molti di più avranno saputo che c'era questa cosa, ma vabbè. No, vedete, mi sì, ma è anche per un Anch'io. Va bene, vi ringrazio. Sì. Bene.